It's time now to learn more about telling the time. Che ore sono? Sono quasi le 11. To be able to tell the time at any hour of the day or night, you need the numbers up to 59, which you know, and a few new words. Come al solito, ascolti le parole e ripeta l'italiano dopo la seconda volta. Un quarto. A quarter. Un quarto. Mezzo. Half. Mezzo. Meno. Less. Meno. Alle. To. Alle. Mezzogiorno. Midday. Mezzogiorno. Mezzanotte. Midnight. Mezzanotte. Adesso ripassi il nuovo vocabolario e poi continui.